Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. Terza puntata. Paola Poggi non figura tra le partecipanti alla spedizione olimpica italiana di Sydney 2000. Nell'organigramma della cassa di risparmio stampato in un foglio A3 è posta alla destra del direttore, 13 centimetri sotto. Salti dimenticati, salti da dimenticare. Pierpaolo Cevolani ha detto basta nel 1993, proprio quando l'atletica sembrava disposta a prendersi tutto e a restituire il dovuto. Nessuna involuzione tecnica, nessun infortunio tendineo o muscolare. L'asticella continuava a salire. 2,22 saltati a 20 anni sono una porta aperta sul mondo dello sport da gestire a livello professionale. Ma i denti dell'ingranaggio sono saltati ugualmente. Il delicato meccanismo prima di grippare ha emesso cigolii. Sembravano urla di bambini dimenticati da qualche parte in cantina. Pierpaolo non voleva lavorare in banca. Lui voleva volare dall'altra parte. La delusione e lo sconforto non sono sentimenti che si provano solo in pedana. I miei problemi li ho avuti fuori. A un certo punto mi sono reso conto che facevo atletica solo per il mio tecnico Corradi, che ha sempre creduto in me più di quanto ci credessi io. Negli sport individuali l'impegno dei tecnici in alcuni casi è commovente. Missionariato laico votato al romantico fallimento. L'allenatore è un vero e proprio genitore di scorta, un maestro di vita. È un vero e proprio percorso di iniziazione. Ci sono riti e cerimonie, frasi rituali. Negli sport di squadra le responsabilità sono maggiori, ma retribuite adeguatamente. La squadra è un'entità sfuggente che simboleggia e identifica un'unità territoriale. I presidenti mettono i soldi, tanti, ma non c'è sacrificio. È solo il loro giochino perverso e la loro oscena visibilità da esibire con arroganza infinita. Corradi a parte remavano tutti contro, anche in famiglia nessuno pensava all'atletica come una strada aperta per il futuro. Ho subito pressione continua, alla fine smettere è stata una liberazione. Concretezza padana, concede poco al volo libero. La famiglia, la fidanzata e i futuri suoceri prendono il materasso dai quattro spigoli e lo trascinano abbastanza lontano perché Pierpaolo possa sfracellarsi a terra. Corradi di sicuro avrà partecipato a qualche cena con la famiglia del suo allievo, avrà avuto modo di conoscere la fidanzata. Saranno intercorse relazioni cordiali, poi le strade si sono divise. Il titolo italiano allievi del 1989 e la trasferta in Grecia per i campionati mondiali indoor smettono di essere argomento di conversazione. Il cronista Marco Tarozzi chiede se la storia non poteva finire diversamente. Cosa non ha funzionato? Sfortuna? Destino? Non la chiamerei sfortuna, ho girato tutti i gruppi sportivi militari, mille volte mi sono sentito a un passo dal farcela. Sarebbe stata la svolta, la tranquillità, speranze, rassicurazioni. Di parole ne ho sentite parecchie, ma alla fine mi sono trovato solo un'altra volta. So io quanti test ho affrontato, quante prove davanti a gente che dei miei risultati non sapeva che farsene. A metà dell'estate scorsa è crollato tutto. Rifiuti, rinunce, un bombardamento continuo da chi mi stava vicino. Trovati un lavoro, dicevano. L'atletica non paga. Pragmatici assassini. In atletica non c'è la serie B, gli ammortizzatori sociali. Nelle specialità tecniche come il salto in alto sa essere spietata, contempla solo l'assoluto. L'attività amatoriale è quasi impraticabile. Devi solo dimenticare ciò che hai fatto e dedicarti ad altro. Tenevo duro, ma quando mi è arrivato anche il congedo, quando è venuta meno l'ultima speranza di entrare in un gruppo sportivo militare, ho subito un tracollo. Basta, ho chiuso l'album dei ricordi e non mi sono voltato indietro. Gestione del rimpianto? Sarei un bugiardo se dicessi che non provo una stretta al cuore quando mi capita di vedere l'atletica in televisione. Gli amici sono tutti là, in pedana, determinati, quella è la loro strada. La mia oggi è diversa. Non c'è tempo per i rimpianti, i ripensamenti, né per immaginare come sarebbe andata a finire se avessi trovato qualche sicurezza, oltre a un mare di parole, in quel mondo. In sintesi, dovevo dimostrare qualcosa, sempre. Oggi basto a me stesso. Ho trovato la mia indipendenza nel lavoro. Andrea Rabino, classe 78, riesce invece ad approdare al gruppo sportivo militare dei Carabinieri che ha sede a Bologna. Si forma nella Fratellanza Modena sotto la guida del professor Ruggeri. A 15 anni corre 100 metri intorno agli 11 secondi. A Siderno vince il titolo italiano allievi. C'è entusiasmo nell'ambiente. Da tempo non si vedeva uno sprinter di talento in regione. Nella foto del servizio, datata 1 ottobre 1995, Andrea cinge il suo allenatore. La somiglianza tra i due è imbarazzante. Sono appoggiati a una ringhiera bassa che separa gli spalti dalla pista, sorridono. Andrea ha compiuto il piccolo capolavoro necessario. Ha appena conquistato il titolo nonostante un indolenzimento a un bicipite femorale. Ha corso in 10.73, tempo che rappresenta primato personale, migliore prestazione italiana dell'anno e primato regionale. Alle loro spalle quattro velociste rifiniscono gli ultimi dettagli prima della partenza. Con tutta probabilità la finale della gara femminile, stessa distanza regina, i 100 metri piani. Raccolgono gli ultimi spiccioli di concentrazione prima di sprigionare tutto il potenziale. Dovranno trattenere energia senza disperderla in gesti tecnici scoordinati o irrigidimenti muscolari. Hanno le mani ai fianchi, una guarda davanti a sé, altre fissano il terreno, un paio provano l'assetto sul blocco. Non ho informazioni sulla gara. Non sarebbe difficile risalire alla classifica dei 100 metri femminili del campionato italiano allieve del 1995. Ad affascinarmi è proprio lo stallo di questo fermo immagine in questa vecchia rivista. Preferisco non avere dati oggettivi di quell'evento. Andrea ha già le idee molto chiare. La sua biografia e i suoi propositi richiamano la ciclicità delle carriere atletiche che si riproducono secondo i medesimi schemi. Alla fine sono solo dei dettagli a inquinare, personalizzandola, la storia individuale. Il salto di qualità è venuto nel 93, al primo anno della categoria allievi. L'anno scorso ho avuto la grande delusione dei campionati italiani individuali e lì è iniziata la costruzione del successo di Siderno. A una delusione è seguito un riscatto, sintomo di doti caratteriali non comuni. Sono migliorato diventando più fluido nella corsa. I vantaggi sono stati immediati, ma questo è solo l'inizio perché i problemi tecnici da eliminare sono ancora molti. D'inverno intensificherò gli allenamenti portandoli a 4 settimanali e la lavorerò di più sul potenziamento fisico. Dalla foto si evince che non ha certo la fisicità dei neri americani. L'altezza è sotto la media per un velocista. Per allinearsi alla testa del suo tecnico è salito sul gradino di cemento alla base della ringhiera. Le braccia sono tese, tricipite e bicipite non si evidenziano, nessun intarsio nella massa muscolare. Le spalle sono larghe, ma le fibre muscolari sono poco definite. Il sogno è quello di qualificarmi per i mondiali juniores di Sydney, anche se il passaggio di categoria mi metterà di fronte a avversari sempre più forti. Ritengo comunque di aver molto da imparare e da migliorare. Le incognite del futuro, piccole angosce gestibili edulcorate dalla coscienza che il tempo gioca a proprio favore. Le sedute in pista, gli esercizi di potenziamento in palestra, decine di migliaia di parole riferite alle strategie tecniche. Tutto questo separa il giovane atleta dal giorno della gara. È un tempo di sospensione inaspettatamente confortevole. Quel sacrificio quotidiano cullato da sogni di vittoria è nulla se confrontato allo stress nervoso che comporta una gara da divorare in 10 secondi. Al dicembre 2006 il tempo di Andrea ottenuto a Siderno figura ancora nei primi 10 risultati di sempre al limite dei 18 anni. La sua carriera è eccellente, senza picchi. Ha una partenza bruciante e si specializza nei 60 metri indoor, distanza in cui nel 2003 guadagnerà la convocazione per i campionati mondiali di Birmingham arrivando alla semifinale. Nella foto ufficiale del sito della federazione il cranio di Andrea Rabino è rasato, un taglio tattico che corregge la calvizie. La qualità muscolare è migliorata. È l'unico partecipante alla semifinale dei 60 metri con il torace non depilato. Ruggisce al mondo la sua latinità testosteronica. Da bambino andavo già fortissimo. A 11 anni mi mischiavo ai grandi nelle podistiche domenicali e arrivavo tra i primi al traguardo. Gli atleti sconfitti non erano per nulla scontrosi. La loro sudorazione mi sembrava eccessiva, fastidiosa, acida. Mi accarezzavano il capo, facevano un sacco di complimenti che mi lasciavano indifferente. Ero molto disciplinato, nessuna distrazione con i soliti giochi di squadra che entusiasmavano i miei coetanei. Smisi presto di partecipare alle gare riservate agli adulti, troppo lunghe e sfibranti, atti di eroismo controproducenti che alla lunga mi avrebbero bruciato. A 12 anni intrapresi il primo programma di allenamento con un tecnico che scendeva appositamente dalla città 2 volte a settimana. Avevo le idee chiare e nessuna paura della sofferenza. L'impianto sportivo era privo di illuminazione. Correvo quasi al buio. Nei mesi invernali la pista in terra battuta rossa si riempiva di buche infide e melmose. Le linee delle corsie erano incerte, delimitate in polvere di gesso. Sul cordolo in cemento erompeva una vegetazione misteriosa e selvatica. Era un addestramento feroce per una guerra non dichiarata. L'allenatore mi urlava i tempi di passaggio e non aveva i riguardi mollicci dei vecchi podisti battuti la domenica. Quando i tempi venivano, avevo fatto solo il mio dovere. Quando sbagliavo una gara, il lunedì scendeva appositamente per parlarne. Nulla di consolatorio né di punitivo, solo analisi molto lucide. La sua versione dei fatti, le sue ipotesi, i consigli per non commettere in futuro gli stessi errori. Non ero un ragazzino, ero un atleta. Gliene ero grato. Io non voglio naufragare in Google. C'è tristezza, la malinconia latente delle promesse non mantenute. Dietro ci sono brutte vicende. O mi piace pensare che sia così. Quasi mai riesco a risalire con certezza alla storia integrale di questi fiori non sbocciati. Droga per i maschi, stufi di disciplina ascetica, di un'attività che richiede dedizione assoluta. Anoressia per le ragazze, amenorrea, organismo sballato, variazioni metaboliche, mutazioni ormonali e mille altre variabili. Nel migliore dei casi si sono rifugiati nello studio di materie tecnico-scientifiche. Alcuni risultano essersi laureati con 110 e lode, anche se rimango con il dubbio dell'omonimia. Molti sono ricercatori universitari. Curioso, un rifiuto totale della fisicità. Nel 1979 Gaetano Erba vince un campionato europeo dei 2000 siepi con uno strepitoso 5:27, allora primato del mondo di categoria. Il suo immenso talento, confermato da questo risultato, rimase inespresso a causa di non meglio identificati problemi di carattere fisico, che lo costrinsero troppo presto all'abbandono. Oggi ci sono atleti della categoria allievi, 16 anni contro i 18 dello sfortunato Erba, capaci di scendere agevolmente sotto un risultato di questo valore. Ait Bahamad Abdelghani è nato in Marocco, residente a Reggio Emilia, dove vive con la sorella e gareggia per la Libertas Catania. Ha ottenuto un quarto posto ai mondiali Under 18 di Marrakesh nel 2005 con 5:26:52. Walter Merlo, classe 65, il 7 giugno del 1984 corre 5.000 metri in 13:41. È ancora juniores quando ottiene questo tempo in un meeting internazionale a Firenze. Palese in pista un talento superiore a quello di Antibo e Cova, medagliati olimpici, mondiali ed europei. Mette in ombra coetanei che in età matura avrebbero ottenuto risultati strepitosi in maratona, aprendo una vera e propria età dell'oro in questa disciplina. Poli, Pizzolato, Leone, vincitori della Maratona Business di New York, Bordin e Baldini capaci di vincere il titolo olimpico, solo per citare le pietre più preziose di un giacimento che per la nostra atletica pare infinito. Merlo sembrava un giovane aquilotto, i futuri maratoneti, pulcini di quaglia in allevamenti intensivi. Non so dove e come si è incagliato. È finito in una bolla d'aria, in un vuoto temporale. Non so dove e come gli altri hanno spiccato il volo. Qualcuno avrebbe dovuto tenere un diario avendo cura di annotare allenamenti, gare, alimentazione, infortuni, malattie e tutti i particolari di vita extra atletici rilevanti. Un amore adolescenziale non corrisposto, invalidante per un periodo più o meno lungo, oppure un lutto familiare. Molti atleti redigono una memoria storica per decifrare i segnali del proprio organismo in relazione alle variabili. Mettere mano a una documentazione come questa mi darebbe conforto. Aprire le scatole nere per dare un senso alle perdite di quota di questi atleti sarebbe di grande aiuto. Eviterei gli stessi errori aggirando ostacoli. Gestirei al meglio la programmazione degli eventi. I diari degli atleti che hanno avuto misteriose traslazioni dalla mediocrità all'eccellenza saranno segreti, buoni per indagini della magistratura. A volte sono gli allenatori che bruciano giovani talenti con programmi severissimi. Ma in questo caso Walter Merlo è atleta che pare dedito all'autolesionismo. Il suo primo tecnico lo descrive bizzarro e incontrollabile. Non aggiunge altri dettagli alla vicenda che resta opaca. Merlo ha continuato una dignitosa carriera da semiprofessionista, vincendo gare di livello regionale, circuiti di seconda schiera, grazie a volate finali che ricordavano i fasti giovanili. Rimane laterale alla grande atletica. Nessuna presenza in nazionale. Muore in un disgraziato incidente di montagna. Clara Arlati era stata primatista europea dei 3000 metri piani juniores. In realtà aveva ancora i 15 anni delle allieve, categoria che al tempo non era riconosciuta nelle graduatorie internazionali. Oggi ha ripreso carne e forme femminili, come si vede da un'immagine presente nella galleria fotografica. È seduta su un ciclomotore, ha un casco nero in grembo e sorride. Si occupa di letteratura, poesie e traduzioni. Ha pubblicato 2 libri per una piccola casa editrice. Sul suo blog ho trovato informazioni e foto recenti degli anni in cui praticava atletica. Dopo l'allergia alle competizioni è subentrata una dipendenza dalla corsa solitaria, almeno 10 km al giorno senza l'assillo del cronometro delle gare. Ha rimosso i successi sportivi della prima fase della sua vita. Una parte di sé ha dovuto soccombere. Nessun rimpianto, ma non posso che avvertire un vuoto. Mi piace immaginare. Lavoro sulle interruzioni, sui tasselli mancanti. L'ho contattata. Mi ha risposto allegando una bella poesia che parlava di quegli anni lontani, di quell'altra vita agonistica. Non mi occupo di poesia, ma la ricordo benissimo. Uno scricciolo che faceva gridare al miracolo nelle podistiche provinciali. Era molto esile, riccioli d'oro sopra un telaio essenziale, pelle bianchissima, una Shirley Temple dell'atletica leggera. Poi era sparita. Si parlava di allenatori molto esigenti, di anoressia. 20 ripetizioni sui 400 metri sotto il minuto e 18 per una ragazzina di 15 anni. O ti distruggi o diventi un fuoriclasse. Condivido questa filosofia. Uova tirate al muro, quelle che non si rompono schiudono pulcini di campioni, il resto frittata. Inutile ingrossare la massa di perdenti nelle stracittadine o nella maratona di New York a 350 euro a pettorale. Pecore indottrinate da una vaga idea di salutismo e competizione con se stessi che finiscono nelle mani di astuti tour operator. Le maratone di tutto il mondo sono intasate da commercialisti e impiegati di banca. Uniscono la competizione alla vacanza. Una parte di questi colletti bianchi con esigenze agonistiche è stata assorbita dal triathlon, il festival della mediocrità. Faccio 3 cose perché una non mi riesce bene. Il vero sport non è figlio di entusiasmi post-datati per professionisti di mezza età affetti da edonismo. Deve crescere, formarsi dalle categorie giovanili, almeno dai 16 anni, ed evolvere gradualmente. Il futuro campione deve tenersi riparato dalle tempeste ormonali, ignorare lucignoli del nulla. L'atletica esige disciplina, puntualità negli impegni invernali delle campestri e nella stagione su pista che va da aprile a luglio. Si deve acquisire familiarità con meccanismi per nulla naturali, l'abitudine alla fatica non necessaria. A bordo pista, missionari non retribuiti volontari del malaugurio pigiano tasti di cronometri manuali, gridano tempi di passaggio incuranti di tutto: pioggia, vento, ghiaccio, neve, nebbia, tecnici, atleti invecchiati. La forza centrifuga del tempo li ha spinti fuori dall'anello di tartan, sull'erba. In un libro di Alessandro Donati del 1989 sul tema del doping, l'introduzione di Antonello Sette inizia così: il mare in burrasca dall'altro lato della via, il cielo grigio, la pioggia fitta come solo il mare d'inverno. Nel piccolo stadio di Gaeta 5 uomini divorano insaziabili la pista e sembrano gli ultimi epigoni di un'atletica che rischia di morire. Ai margini della corsia un uomo attempato segna a fatica, su un foglietto bagnato, tempi definiti al 100° di secondo. Quando inizi a sballare per eccesso i tempi previsti nella tabella, quando a 3/4 di gara ti stacchi dal gruppetto dei pochi atleti che si giocheranno la vittoria, si mettono in scena piccoli drammi. Resistenza aerobica, potenza aerobica, lavori lattacidi, termini asettici che si riferiscono alle ripetute in pista. Si frazionano i chilometri totali che si correranno in gara, ma su ritmi più veloci. I minuti tra una prova e l'altra sono uno stallo che angoscia. Si resettano orologi al quarzo, colpi di bronchite tagliano la nebbia, non parli con i compagni di allenamento. Sei da solo con i limiti del fisico a cui ti ha condannato madre natura, quella puttana. Roberto dice spesso frasi di questo tipo. Tutta questa enfasi mi fa tristezza. Ricorda certi pugili suonati che fanno leggenda epica di una scazzottata. Una notte il cuore mi è salito in gola e lucine natalizie hanno preso a discendere ai lati del campo visivo. Ho perso la sensazione tattile del mio corpo e degli oggetti intorno. Mi schiaffeggiavo il viso e le cosce, nulla, carne morta. Avrei potuto scannarmi le carni con un coltello. Senza logica avevo riempito la vasca di acqua bollente e mi ero immerso fino al collo. Era la cosa più idiota che potessi fare. A un passo dallo svenimento avevo trovato la forza di uscire per eseguire una serie di 10 flessioni. I battiti in fondo al petto si erano fatti remoti, quasi inavvertibili. All'ottava flessione mi ero coricato su un fianco, esausto, bacino e guancia a contatto con le piastrelle fredde, sensazioni lapidaria, di quiete definitiva. Giulio aveva detto di tenere il numero della guardia medica sul comodino, ma di considerarla come soluzione estrema. Nella maggior parte dei casi sarebbe bastato correre qualche minuto sul tapirulan per alzare i battiti cardiaci troppo dilatati e allontanare il senso di soffocamento. I battiti che suonano a morto. Don, don, don. Come diceva Nerredin, un marocchino di Casablanca, uno dei primi a correre in Italia alla fine degli anni Ottanta e che oggi fa il manager. Brucia ragazzini in gare su strada per 2 soldi che intasca solo lui. Devono fare esperienza, dice. Giulio si è raccomandato di non chiamarlo a casa di notte. Giulio ha detto di non farlo più. Quella notte gridava. Ero riuscito a reagire, a staccarmi dalle piastrelle del bagno e a raggiungere il telefono in salotto. Era talmente incazzato che poi i battiti sono tornati nella norma anche senza altre flessioni. Ho dimenticato il malore. Sara non si era accorta di nulla. 2 roipnol lo fanno sprofondare il sonno nell'oblio e ricaricano per la settimana in ufficio. Il lunedì al campo era calmo. Ha raccontato di aver avuto un amante. La moglie lo aveva perdonato ma era rimasta sospettosa. La donna telefonava in piena notte con richieste assurde. Passeggiate sulla spiaggia a piedi nudi, corse folli in autostrada senza meta. Ma vaffanculo, pensava lui mentre cercava di zittirla con promesse sussurrate alla cornetta e la moglie in vestaglia sulla soglia della porta. Quella ragazza era davvero fuori di testa, pericolosissima, ma a letto indimenticabile. Giulio mi aveva pregato di usare il telefono fisso. I cellulari sono facili alle intercettazioni. Sapevo che era la stessa cosa, ma ero rimasto zitto come un bambino che ha fatto la marachella e aspetta solo che la tempesta passi. Poi mi aveva allungato un blister di capsule rosse senza confezione. Martedì e il giovedì prendi una di queste prima di coricarti, quando fai lavori di qualità, ok? Ok. Ti sei preso paura? Non è questo, insomma non riesco a pensare a nulla che possa avere a che fare con la malattia. La sola idea di malattia mi repelle. Vado in depressione per un'influenza. Bravo idiota, così ti si abbassano ancora di più le difese immunitarie. La depressione te la abbassa e abbassa pure il testosterone. Lo so, cazzo. Comunque ho capito, non hai avuto nulla, ti sei impressionato, è stata solo una piccola crisi di panico. E la roba fredda? È complicata da iniettare, ma funziona. E certo che funziona. Il vecchio insiste con l'Epargrisiovit. Beh, lo hai detto, è un vecchio, è solo buono a compilare dettagliati programmi a mazzacavalli e pensa di riparare tutto con gli amminoacidi e la B12, come se fossi un bambino inappetente. Come ai suoi tempi in bianco e nero e spara cazzate da nostalgico con le palle. Vuole che diventi un perdente come lui. Calma, Roberto deve fare la sua parte, è sempre stato bravo e si tiene aggiornato sulle metodiche di allenamento. È il nostro approccio mentale su come impostare la tua carriera che deve essere diverso. Credimi, oggi o attacchi tu per primo o ti affondano. Nessuno si fa scrupoli. Sembra un ambiente amichevole, niente a che fare con il calcio, ma non farti deviare dalle apparenze. Anche da noi il gioco è duro e si commettono scorrettezze. Il fatto è che il giorno della gara i più sorridenti e rilassati sono quelli che hanno lavorato bene nelle settimane precedenti, quelli sicuri della propria condizione. Tradotto, i più bombati. Anch'io vorrei essere più sereno, più sicuro dei miei mezzi. Comunque gli amminoacidi ramificati continuo a prenderli, senza proteste. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.